poco quest'occhi, gli conosci Pellon? Beh, no, dimmi, conosci Troditor, questo che mi è? Credi. Nell'uno d'or di Bradamante, vedi la tuo cor, guardali bene, guardali Troditor. Non mi sovviene. Non ti sovvien la fe, mal cavaliero, che le giurasti a me? L'amato cerchio, queste che di tua fe mi dasti impegno, mio! Uccel, qual vero, mi si squarcia dagli occhi, brava amante, sposa! Il sagro anello sciolse l'incanto, onde l'idea nascosa gli rimaneva infin del tuo bel volto. Mie celesti pupille, occhi sdegnosi, stellate d'amore, fulminate. Torna con quell'anello, Ruggero, a rimirar dolcino il bello. E se allora da te viene riamata, ti perdono.